indecoroso. Cioè, il titolo è Azzeriamo la RAI, perché? Sì, perché azzeriamo la RAI da parte di un giornalista come quelli del giornale, che nei giorni scorsi ha chiesto e ha ottenuto, almeno da parte mia l'ha ottenuta, la solidarietà, quando si diceva ci sono le pressioni di Confindustria, non ci fanno lavorare, i nostri sono, non sono dossier, ma sono inchieste, non sono campagne, e dopodiché chiede che la più grande azienda editoriale d'Italia venga praticamente chiusa. Questa è una cosa assolutamente scandalosa. Senta, dovrebbe dire Belpietro il contrario: non mi piace come questi giornalisti fanno il loro lavoro, ma io li difendo. Ma c'è davvero, come oggi credo Travaglio in un'intervista al Secolo d'Italia dice, un'aria mefitica in Rai? Cioè, è davvero una situazione così? Perché tutti i giorni si parla della Rai per paginate sui giornali? Ma intanto diciamo una cosa, c'è un problema vecchio nel nostro paese fra giornalismo della carta stampata e giornalismo radiotelevisivo. Le ragioni sono complesse e non le posso fare perché annoierei i vostri ascoltatori, non le posso raccontare tutte, ma insomma il punto di fondo è che c'è un atteggiamento di una serie di giornalisti radio della carta stampata secondo cui loro sarebbero i veri giornalisti, quelli della RAI sono gli uomini del padrone, prima del padrone Bernabei al tempo del monopolio, poi del padrone tripartito al tempo della famosa tripartizione contro cui sparava Repubblica, poi di altri padroni. Allora Minzolini, uomo del padrone Berlusconi, io non so di quale padrone, ma insomma forse dell'ideologia, insomma, l'ideologia sarebbe il mio padrone secondo Belpietro. Allora questo è un atteggiamento ridicolo, anche perché la maggior parte dei giornalisti della carta stampata arrivati in Rai hanno fatto delle figure barbine, no? Quindi voglio dire, insomma, dovrebbero smetterla, veramente dovrebbero smetterla di dare lezioni, perché francamente non ne hanno titolo. Questa è la prima ragione. La seconda questione che dico con forza è che la RAI è da tanti tanti anni, badate, io lo dicevo 15 anni fa, non ora, ostaggio del monopolio privato, monopolio privato di proprietà di Berlusconi, perché la RAI, il sistema televisivo italiano è stato disegnato così, un duopolio, al privato tutto è concesso, la RAI ha tutte le colpe. Bisognava già allora rifiutare questa logica. Sì. Mi ricordo che Santoro e io dicevamo, ma una privatizzazione parziale della RAI è indispensabile, come si è fatto in Francia. Oggi torna la tematica della privatizzazione. Ma chiedo invece, la vicenda Saviano, Fazio, anche oggi, adesso Masi ha detto vadano in onda e Fazio e Saviano dicono a questo punto non ci sono più le condizioni. Cioè, non risulta alla fine, so che è una parola brutta, ma anche dei piagnistei un po' inutili? Oppure no? Piagnistei inutili quali? Ma non lo so, cioè nel senso il dibattito, se alla fine poi si va in onda, insomma sembra che... No, ma scusa, voglio dire, io non so quanti mezzi abbiate voi a Radio 24, ma una certa certezza dei mezzi per poter andare in onda e per poter programmare le trasmissioni dovreste averla. Ma questo sì. Appunto, questo è quello che manca. Se i contratti non sono stati firmati fino al giorno prima della messa in onda, come si fa ad andare in onda? Il problema lì è sempre il solito, che il direttore generale, e probabilmente ha anche delle ragioni, ma il direttore generale ritiene che tutto gli debba essere sottoposto. La RAI è una roba enormemente grande, sottoporre al direttore generale qualunque contratto, qualunque richiesta di comparsata televisiva, significa praticamente rischiare di non andare mai in onda. Vi faccio un esempio: il palinsesto, diciamo, di Rai News autunnale è già cominciato, io ho tre trasmissioni in prima serata che non hanno particolari costi, che non hanno problemi politici, le cui matricole, come si dice, sono alla firma del direttore generale. Lo capisco Mauro Masi, cioè, con tutto quello che deve firmare si può mica occupare di Rai News, spiego. Sì. Però nel caso di Fazio o anche nel caso di Santoro questo diventa un attentato alla qualità, se fino all'ultimo non arrivano i contratti. Mi spiego. Dopodiché i soldi saranno tanti. Ora Benigni dice che viene anche gratis. Viene gratis, è una questione di soldi, credo. No, cioè cosa c'è dietro? Io ho consigliato sia Benigni che a Saviano di non venire gratis, perché quella è sicuramente una trasmissione che per la Rai sarà inattivo. Cioè, la Rai no, ma infatti questa di venire gratis è una cosa ridicola, nel senso che uno è un professionista, uno venire gratis è ridicolo. Poi se costa 200 porterà 300 di se vuole fare una, se Benigni vuole fare un'operazione politica, dovrebbe dire io mi faccio pagare, decidiamo il compenso e questo compenso lo do, non lo so, a Libera di Don Ciotti, a Emergency di Gino Strada, così, perché non si possa dire che sono i soliti anti-berlusconiani avidi e attenti, no? Santoro è diventato Sandoro in una certa vulgata, non si possa dire questo. Però il punto è che la trasmissione è una trasmissione che moltissimi vedrebbero e questa polemica fa male a tutti. Ma no, ma infatti, l'unica cosa che io mi sento di dire, andrà in onda, scusami. Sì, no, dico andrà in onda, dica, concludo. No, andrà in onda, non lo so, io l'unica cosa che mi sento di dire, l'ho fatto ieri in trasmissione, lo ripeto dal vostro microfono, io mi appello a Berlusconi, ma intervenga lui, mostri lui un po' di buonsenso e dica che non è possibile questo tipo di polemica. Cioè, diceva oggi il presidente di Confindustria Campania, che ho intervistato, ma io voglio vederla la trasmissione di Saviano e di Biagi, e non è che mica cambierò orientamento perché ho visto la trasmissione. Fra l'altro credo che Lettieri sia uno di quelli che il centrodestra corteggia per le elezioni campane, quelle di Napoli. Allora voglio dire, non cambierà idea per quella trasmissione, vogliamo vedere tutti, credo che la vedremo. Insomma, in ogni caso l'appello a Berlusconi, mi devo fermare. Corradino Mineo, grazie per essere stato con noi, grazie, direttore di Rai News 24. Noi continuiamo a parlare di TV in un altro modo, la TV e i riflettori perennemente accesi su il delitto di Avetrana. È troppo? Radio24.it per votare, oppure 800 24 00 24, tra poco. 24 mattino. Eccoci qua, alle 8:35 minuti, parliamo anche noi del delitto di Avetrana, ma non delle indagini, delle novità, l'ultima che è venuta fuori, che forse lo zio dormiva in realtà quando veniva uccisa Sara Rascazzi, e dunque a quel punto non è lui, potrebbe aver preso parte attiva solo nell'occultamento del cadavere, una fase successiva. Ma noi parliamo dell'esposizione mediatica, di come i media, di come le TV si stanno occupando di questo caso. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. E allora eccoci qua, le TV stanno esagerando, questo vi chiediamo, la domanda molto semplice, su radio24.it votate, devo dire per ora non so, il 93% dice di sì, io non lo so se Lamberto Sposini, buongiorno Lamberto. Buongiorno in diretto. A voi. Insomma, è un po' emblematico, anche se contraddittorio, il 93% dice di sì, poi chissà quanti di questi ogni giorno si sintonizzano, ieri anche la vita in diretta, so, tutta dedicata a questo. Io, oltre a Lamberto Sposini, voglio salutare anche Marida Lombardo Pigliola, buongiorno, nel Messaggero, buongiorno Marida. Eccoci qua, adesso la chiamiamo e ci raggiunge tra un attimo. Io vorrei partire da due audio che mi hanno colpito, avete visto tantissime interviste, sfoghi, ce ne sono un paio che ieri Blob tra l'altro ha rimandato. Il primo è questo, la Valentina credo si chiami, no? la sorella insomma di Sabrina, che è in carcere per l'omicidio di Sara Scazzi, a un certo punto non ne può più, sentite eh? Avete ribadito la solidarietà a vostra sorella? Andate via, non vi sopportiamo più, avete rovinato voi pure mia sorella, non l'avete mai aiutata. Fuori. Questa mattinata è importante signora. È importante per voi, è importante per voi. Ora, al di là del fatto avete rovinato voi mia sorella, vabbè, questo è un comprensibile sfogo un po' inutile. Ma cioè, capite, cioè, l'urlo di questa persona che dice andatevene via, il giornalista imperterrito che fa la domanda, ma ce n'è un'altra immagine di quando in procura Sabrina col procuratore che lo segue e una selva di microfoni, sentiamo che succede. Cortesemente basta. Adesso cosa accade? La mamma Cosima la stanno... Abbiate rispetto. Fate schifo. Fate schifo, era lei che ha detto fate schifo. E poi continua l'assedio fuori con le macchine, 100 microfoni fuori da una macchina. Sentite come finisce, un giornalista che dice.

e mi è sembrato quasi un effetto secondario della violenza di una storia del genere, no? Come se la violenza si producesse per proprietà transitiva anche in altri effetti secondari. Detto questo, io credo che, ecco, un'ipocrita, diciamo una candidata ipocrita, sì, no, perché no. Io stesso ho partecipato all'informazione su questo. No, ma voglio dire, ma anche a varie trasmissioni. Io dico di ipocrisia ne abbiamo vista molta, cioè per esempio il famoso domenica c'è stato, credo, un pellegrinaggio davanti alla casa. Allora tutta la gente che poi critica e poi va a vedere la casa, perché? Naturalmente se c'è un'offerta c'è anche una domanda, non si capisce se nasce prima l'uovo o la gallina. Io penso che il limite c'è e sta nel tenere sempre presente, da un lato, che l'informazione su questa vicenda è importante, è indispensabile, ha avuto un ruolo fondamentale e continua ad averlo, perché in questa vicenda c'è qualcosa comunque di paradigmatico, di esemplare su quello che può accadere nelle comunità, nelle famiglie, e quindi è importante rifletterci. Come fare informazione? Io penso che dobbiamo tenere presente sempre il fatto che il nostro ruolo dovrebbe essere quello di segnalare il più possibile gli elementi sui quali è importante sviluppare una riflessione nel raccontare quello che succede, entrare in questa vicenda, non dico in punta di piedi, ma nemmeno a gamba tesa. Beh, insomma, punta di piedi, di punti piedi, sì, per ora se ne sono viste poche in questa vicenda. Mi devo fermare un attimo per le informazioni sul traffico, da qui voglio ripartire, c'è anche qualche ascoltatore, mi segnalano, io non l'ho visto ieri, che da Bruno Vespa è comparso il plastico che c'era, credo, anche nel caso di Cogne, nel caso Garlasco. È comparso il plastico, immagino, della casa, insomma, per cercare di capire. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, le TV stanno esagerando, siamo al 90% di sì per il momento sul caso Vetrana. A chi ci scrive se un giornalista non riesce a capire dove fermarsi nello spettacolarizzare il dolore dei genitori di chi è morto, cambi mestiere. Io dico però, cioè, su questa vicenda la TV è andata da Vetrana, le TV sono andate da Vetrana, i giornalisti, ma anche i protagonisti hanno cercato le TV, basta leggere i resoconti dei giornali dal primo singolo secondo, addirittura c'era qualcuno che diceva va in TV a dire che sono innocente, gente che si informava insomma di cosa si diceva in TV dei protagonisti, quindi insomma non è che la TV è lì perché anche per caso, è stata anche cercata da molti. Ma voglio sapere cosa ne pensa qualche ascoltatore. Giuseppe da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Dica. Beh, è risaputo che lo spettatore italiano è morboso, basta vedere gli incidenti sulle autostrade, no? L'è mai capitato di vedere gente che si ferma in tracciabilità? Certo, come no, ma spettatore italiano, la morbosità è un qualcosa che attrae, credo anche in Giappone. Ecco, non... Volevo chiedere a lei e forse pure a Spottini, sì. Ma non è che in questo periodo si parla tanto di questo, al di là della morbosità, come dicevo prima, perché toccare altri argomenti è diventato un po' rischioso per i giornalisti? Ma quale? E da quello che sta succedendo con Saviano, con Fatto, ne abbiamo parlato poco fa. Comunque Sposini, dirotti l'attenzione dalle cose più importanti e pericolose, questa è l'accusa. No, non credo. Ma questa è la domanda che si pone. No, ho capito. C'è anche da dire che ogni programma ha la sua fascia oraria, il suo pubblico, cioè se Porta a Porta o Anno Zero facessero quello che fa più il pomeriggio non avrebbero l'ascolto che hanno e viceversa, cioè il pubblico del pomeriggio non è lo stesso pubblico della seconda serata, per cui è chiaro che alcuni argomenti si sviluppano, altri si sviluppano meno, non perché ce lo impedisce chissà chi o perché io mi autocensuro, non c'entra nulla. Alcuni argomenti sono più adatti, come dire, ad altra trasmissione, al pubblico. Sentiamo, cioè, questo non è sentiamo che ne pensa Pasquale da Bologna, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Dica. Senta, io sono legato ad una visione, come posso dire, didattica della televisione. Perché sin dagli anni 50 la gente ha imparato a leggere e scrivere con la televisione, e la televisione diffondeva un modello comportamentale, un modello sociale. Ora però, con la moltiplicazione quasi esasperata dei canali televisivi, si è scatenata una gara a chi ne dice di più, a chi la dice più grossa, e in questa gara anche gli spettatori, i protagonisti, sono diventati, come posso dire, un po' esibizionisti, per cui alla fine questa visione didattica si è svilita. Perché? Perché si fa a gara a chi, anche col morto di mezzo, si mette dietro le telecamere, ai giornalisti che pur di raggiungere lo scoop e l'audience non lesinano qualche colpuccio basso oppure qualche colpo deontologicamente discutibile. Quindi lei dice tutto un sistema un po' che deflagrato. Esatto, cioè come la funzione televisiva per me rimane ed è quella didattica, poi è come la si mette in moto. Ho capito, ma non è, ma guardi, non è solo una funzione didattica, c'è una grande offerta, come dice lei, c'è anche l'intrattenimento. Quando dico intrattenimento, dico a 360 gradi, cioè anche dare le notizie. Su quella che era la funzione originaria della divulgazione della cronaca, l'informazione, divulgazione scientifica, modello didattico, tutto questo è venuto meno perché la televisione è diventato un, mi passi il termine un po' improprio, ma un bene di consumo, per cui molte volte i giornalisti rincorrono questo tipo di aspetto e non quello che romanticamente dovrebbe essere conservato da anni, quello che era originario. Va bene, la ringrazio Pasquale. Vorrei da Marida Lombardo Piola, che appunto è lì a Vetrana, capire se è un'impressione sbagliata che ho avuto io, che tutti i protagonisti, anche i protagonisti di questa vicenda, abbiano cercato l'esposizione mediatica fin dal primo giorno o no? Assolutamente, guarda, la spettacolarizzazione di questa vicenda, per decorosa o meno che sia stata, poi ognuno ha le sue opinioni, è un gioco delle parti al quale hanno partecipato tutti, al quale abbiamo partecipato tutti, mi ci metto anch'io, è ovvio che poi dipende da come partecipi a questo flusso di informazioni o di commenti, però tutti siamo stati travolti da un meccanismo che era inarrestabile, fin da di più quando il grido disperato di Valentina che abbiamo sentito dice l'avete rovinata voi. Sì, beh, confusione, del dolore, vuole dire anche che è stato il voler assumere un ruolo da protagonista in un reality da parte di Sabrina con un grande determinazione per una scelta precisa, quello che l'ha esposta di più al rilevamento delle contraddizioni che poi quello però è avvenuto dopo, se vogliamo, cioè voglio dire, nel senso che no perché non vorrei che di questa deriva accusasse i mezzi di informazione di essere all'origine dell'omicidio, insomma. Assolutamente. Guarda, i mezzi di informazione, al di là dell'oltrepassamento di quei limiti che di cui parlavamo prima, hanno avuto una funzione fondamentale perché hanno tenuto alta l'attenzione su questo caso e quindi incoraggiato la pressione degli investigatori, hanno fornito elementi di investigazione e soprattutto in questo caso, in questo momento, possono essere fondamentali, lo dicevo prima, per incoraggiare una riflessione su un delitto di famiglia che ci parla di come è oggi la famiglia. E quindi che ci può fare delle riflessioni su questo, quella funzione didattica, socialmente didattica che a cui si riferiva l'ascoltatore. Vediamo che ne pensa Fabio da Milano. Buongiorno Fabio. Buongiorno a lei, suoi ospiti. Io volevo un attimino contestare quello che stanno dicendo adesso i giornalisti, perché mi pare ovvio che la gente sia purtroppo morbosamente attratta da queste cose, ma mi aspetterei dai giornalisti, in particolare dal servizio pubblico, che ponessero un limite a queste cose, perché se io avessi un video di una persona torturata, sono sicuro che avrei un audience del 90%. Oh, interessante. Ma ci vuole un limite, Lamberto. Devo chiudere, Lamberto, 30 secondi. Questo limite, soprattutto al servizio pubblico, tu che ci lavori in Rai. Ma l'ascoltatore non sa forse che ogni giorno in televisione si buttano decine di filmati proprio perché sono veramente orrendi. Io ricordo quando lavoravo a Uno Mattina arrivò il filmato di un politico americano che era stato scoperto a prendere mazzette, da quello che si suicidò, convocò una conferenza stampa e si mise nel mezzo della conferenza stampa, tirò fuori la pistola, se la mise in bocca e si sparò. Non è che l'abbiamo mandato in onda, ovviamente, questo mi sembra chiaro, però quando l'ascoltatore prima parlava di TV didattica, che poi credo volesse dire pedagogica più che didattica, però questo io trovo che sia inaccettabile, è un discorso pericolosissimo, che è che stabilisce quello che può essere fatto vedere in TV e quello che no, cioè è veramente un discorso pericoloso. Oggi la vita in diretta non ci può stare su questo, oggi ne parlate ovviamente del caso. Sì, certo, ne parliamo, sì, ma scusate. No, no, è una domanda. I giornali, io oggi ma sono pieni di paginate. Al computer ci sono i siti del Corriere della Sera. Ma certo, aprono su questo. Che no, aprono ma tutti con, le ultimi, con gli ultimi sviluppi di sulla vicenda. Ma mi devo... No, lo so, sporca, lo so. Mi devo... Ma no, non è sporca la TV. Di dire, la televisione è invasiva, ma... Veramente, questo no, mi devo fermare. Grazie a tutti, Antonella Migliaccio in redazione, Peter Bescapè in regia. Do la linea a Oscar Giannino. A domani.